Mi piace questo progetto di un'altra Radio de Roma. Si dice così, dice così, dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi, tidi. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. In Artra, Radio Roma. Che emozione, che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. In Artra, Radio Roma. Dai e gritaglie, DJ Gogot è tornato a casa. NART Radio Roma è tornata alla fermata number one, quella della frequenza di NART Radio Roma. Passati i podcast di Super Marone Club Basic nel numero 22, con il suo mix di aprile, e vi avverto che sarà sempre presente con un suo mix ogni mese, presentandoci le novità in campo acid techno. Abbiamo preparato la cassettina per i nostri cuginetti di Radio Pazza, un saluto qui in diretta in questo podcast numero 29 a Miss Prisma e a Mr. Buck. Spero che vi sia piaciuta l'idea e spero che vi siate fatta la cassettina da portare nel vostro mangianastri, nella vostra macchinetta sotto al sole con la pelle che vi si appiccica ai sedili di pelle nera. Vabbè, comunque, bando alle ciance, poche parole, oggi vi presenterò un bel mix. Un mix rilassante, con ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tracce. Iniziamo subito con un gruppo di Bari, loro si chiamano Fabrica, e con un cover di un brano di Blonde Redhead. Continuiamo con un Matteo Pastore, number 18, Dodò 1970 da Venezia, e poi ci sorprenderemo ascoltando la dolcezza e morbida malinconia dei brani di Camomilla, già lo conoscete, Buco Arancio, Giuseppe Bess e il nostro amico Sclock. Tutte queste tracce naturalmente e quest'oggi sono prese da Coop.it. Prendiamo un bel respiro e ci buttiamo tra le trascinanti note di Nodux con un doppio brano, Claudiotto, Terex, per poi atterrare sul cosmo di un'altra Radio Roma, finalmente, dopo un lungo viaggio che è partito da Radio Pazza, Cosmo, con i nostri Zion, Nastro Magnetico, e per ultimo, una dolce canzone semplice fatta con una chitarra e quattro corde di un amico di Duff Desade, un artista di Coop. Lui si chiama Salvatore Loffredo, il brano è Adesso Qui, ed è scritta per una ragazza che ora non c'è più. Perciò, spingete play, spegnete il mondo intorno a voi e ascoltate questo mix solo su NARTRA Radio Roma. E vi ricordo che NARTRA Radio Roma è la radio della radio della radio, e chi volesse fa un po' di gas, deve solo che spigne play e mannaccia la selezione. NARTRA Radio Roma, NARTRA Radio Roma, NARTRA Radio Roma, NARTRA Radio Roma. everybody knows him, he's a pleaser. And nothing else than just a teaser. Teaser of his own faint smile. Yes, an hour so amusing. Smiley can be so consuming. And so strange to explain. Is not like life itself, a mystery or two. Amy's the pleaser, which is mine for me. Yes, so many times he hasn't spoken, just to please, not to displease. Pleaser, if you please. Thank you. Thank you. metal. No, capisco, capisco. Forse è stato spostato sto foglio.

Dicevi proprio a me,